La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. L'articolo 50 della Costituzione affronta uno degli istituti più classici di democrazia diretta, la petizione, cioè la possibilità per tutti i cittadini di inviare istanze al Parlamento. Nel Medioevo era un istituto molto importante perché era la possibilità per i cittadini di rivolgersi direttamente al re o ai primi parlamenti per esporre le proprie esigenze. E nel corso dei secoli ha sempre trovato applicazione fino ad essere specificamente previsto e regolato nel Bill of Rights del 1689. La petizione, in epoca di Statuto Albertino, era ancora un istituto molto significativo. Sfogliando gli annali del Parlamento, addirittura troviamo che negli anni 1848-49, quindi nei primi anni del Regno di Sardegna, il Parlamento dedicava almeno una trentina di sedute l'anno all'esame delle petizioni. Questo ampio cappello storico serve a giustificare il perché in Costituzione troviamo ancora questo articolo, che oggi può sembrare anacronistico, perché sembra davvero fuori dal tempo l'idea che un cittadino scriva al Parlamento per esporre comuni necessità o chiedere provvedimenti legislativi. Eppure invece ancora abbiamo ogni anno almeno un centinaio di petizioni che arrivano in Parlamento, che vengono comunque prese in considerazione e valutate dagli uffici, perché ormai il Parlamento non si interessa più delle petizioni, potremmo dire anche naturalmente, avendo ormai forme di comunicazione molto più immediate. L'articolo 50 è anche importante proprio per ricordare che la democrazia diretta si affianca alla democrazia rappresentativa. La sovranità, come sappiamo, appartiene al popolo e il popolo ha forme di esercizio diretto della propria sovranità. La petizione, il referendum, l'iniziativa legislativa popolare, il referendum sulla revisione costituzionale sono quegli istituti in cui la Costituzione consente al popolo di parlare direttamente.